24 mattino, l'Italia si desta. Sono le 7:15 minuti in questa mattina di venerdì 4 gennaio. Un saluto a tutti da Gigi Donelli. Dunque, benvenuti a questo ultimo appuntamento di settimana con 24 mattina. E dunque, prima di parlare di rassegna stampa come di consueto in questo orario, vi anticipo che più tardi, intorno alle 8:15, affronteremo altri temi. Da una parte quello inevitabile, insomma, la campagna elettorale è partita davvero a tutto regime in questi giorni di festa, già proprio, come dire, nelle ultime ore. L'avete sentito da GR24, quante tensioni, quante occasioni, anche spunti di confronto che si fa via via scontro. Tra l'altro, vi anticipo, sul Sole c'è già un commento con una sola parola: sobrietà, che insomma sembra decisamente un invito in vista delle settimane a venire. Parleremo anche di consumi nella consueta, diciamo, nel consueto ambito del calendario dei saldi, che si aprono progressivamente in tutta Italia. Sentiremo anche, ci chiederemo se i saldi hanno ancora un senso, visto che le notizie si moltiplicano da varie parti d'Italia di ben, come dire, anticipi ben più significativi del calendario stesso. Ma insomma, il voto, i consumi e l'apertura, la riapertura delle scuole sono i momenti del calendario che ci portano verso questo ultimo weekend di feste, il primo completo di quest'anno. Tutto questo dunque più tardi. Adesso allora vediamo insieme cosa offre l'edicola, la rassegna stampa dei quotidiani che trovate questa mattina in edicola. In primo piano. Eccoci qua, e per quanto riguarda il Sole 24 Ore si parla del nuovo redditometro. Dunque, arriva il nuovo redditometro, pronto il decreto che rivede le modalità di accertamento sulle persone fisiche al setaccio oltre 100 voci di spesa, giro di vite sui criteri di calcolo. Il fisco attiva il nuovo redditometro, che sarà ad ampio raggio, si potrà applicare già dall'anno d'imposta 2009. Secondo il decreto del Ministero dell'Economia, atteso oggi sulla Gazzetta Ufficiale che il Sole anticipa, si profila un giro di vite sui criteri di calcolo dei guadagni delle persone fisiche, e il fisco dunque darà la caccia agli evasori determinando sinteticamente il loro reddito e andando oltre le 100 voci di spesa fino ad oggi rese pubbliche dalle bevande ai gioielli, dalle barche alle pay TV, dalle spese per l'utenza all'antiquariato. Questo il primo titolo, quello di apertura sul Sole 24 Ore, accompagnato da un fondo a firma di Salvatore Padula, che dice: fin dall'inizio il redditometro è uno strumento giusto, perché è giusto che tra gli attrezzi per contrastare l'evasione il fisco ne abbia anche uno in grado di mettere in relazione il reddito e il tenore di vita sostenuto dai contribuenti. Poi più avanti dice: tutto bene dunque? Purtroppo no, perché uno strumento idealmente giusto e sicuramente è persino necessario, non è di per sé uno strumento equo, equilibrato e corretto. Naturalmente si dovrà attendere il nuovo redditometro alla prova del suo impiego effettivo già nei prossimi mesi. L'Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito come nella fase iniziale sarà utilizzata la massima cautela e che gli onesti non avranno nulla da temere. Approccio più che condivisibile, soprattutto se, scrive Padula, come è auspicabile, questa fase di avvio servirà anche per eliminare e correggere alcune incongruenze che sin d'ora stanno emergendo. Questo dunque il tema di apertura oggi per il Sole 24 Ore, che naturalmente nelle prime pagine poi raccoglie quelle che sono, diciamo, che è il clima di queste giornate, e cominciando naturalmente dalla politica. Però c'è spazio, come è doveroso, sul quotidiano economico, c'è ampio spazio per quello che riguarda l'emergenza occupazione. E allora l'annuncio del decreto: in un decreto 78 milioni annui destinati ai voucher per le babysitter. Dunque c'è anche questo, che rimanda nelle pagine interne a una pagina piena di informazioni che riguardano i congedi per i padri, per le madri, il monitoraggio, e spiega Davide Colombo nel suo articolo di come ci sia appunto questa dose da 78 milioni, che manca solo il via libera della Corte dei Conti e un altro tassello della riforma del lavoro diventa operativo. Si tratta delle norme in materia di congedo obbligatorio e facoltativo per i padri, dei contributi economici per le madri che al termine della maternità vorranno rientrare al lavoro. Il decreto ministeriale è stato firmato da Elsa Fornero e Vittorio Grilli il 22 dicembre e stanzia 78 milioni l'anno per il triennio 2013-15. Le risorse verranno coperte attingendo dal fondo per l'occupazione femminile, per l'occupazione appunto femminile e dei giovani. Non sto a raccontarvi tutto quanto, vi segnalo solamente, visto che già nei giorni scorsi insomma la notizia ha catturato anche l'attenzione e le richieste di chiarimento dei nostri ascoltatori, per i padri da quest'anno scatta il congedo obbligatorio di un giorno e il congedo facoltativo di due giorni per i padri, sono da utilizzare entro il quinto mese di vita del figlio. Le due forme di congedo sono riconosciute anche ai padri adottivi o affidatari con trattamento economico a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione con contribuzione figurativa piena. I congedi dovranno essere utilizzati in soluzione unica e potranno essere effettuati dopo una comunicazione preventiva al datore di lavoro, da farsi con almeno 15 giorni di anticipo. Dunque, voucher, come abbiamo detto, 78 milioni anni destinati ai voucher per le babysitter. Questo è il titolo dell'approfondimento che trovate poi nelle pagine interne del Sole 24 Ore questa mattina. Sobrietà, vi avevo detto. Ecco, e allora ci spostiamo sul tema della politica, della campagna elettorale. Come avete sentito, insomma, ci sono anche toni inattesi, inaspettati da parte di Monti in questo caso, visto che da altre parti i toni non sono una sorpresa. E il brevissimo commento a firma di Alberto Rioli dice sostanzialmente questo: l'invito del Quirinale a non trasformare la campagna elettorale in rissa rischia di restare vano prima ancora che la vera tensione cominci. Mario Monti, nella doppia veste di premier per gli affari correnti e punto di riferimento del Rassemblement centrista, si è fatto tentare dal duello multimediale con Berlusconi e nelle righe conclusive si legge: non è necessario berlusconizzarsi per battere Berlusconi, siamo certi che ci sia ancora spazio per un altro modo di fare polemica politica. Vedremo dunque su questo punto. Intanto Monti, si apre il caso Rai. Il presidente della vigilanza parla di sgarro alla par condicio, stop al capo del governo da Giletti. Dunque, dopo aver ospitato Berlusconi nei giorni scorsi, adesso l'intervento di Monti solleva invece il veto del presidente della vigilanza. Primi paletti a Monti in TV. La vigilanza Rai approva regole di par condicio per dare al professore spazi uguali agli altri capi di coalizione. Dal premier attacchi a Fassina e Brunetta per le loro posizioni radicali. Su questo invece il Corriere della Sera stamattina dedica il suo fondo invece alle posizioni interne del PD e quelle che definisce le carte troppo coperte del Partito Democratico. Di fatto prende chiaramente spunto dalla polemica che ieri è stata innescata dalle affermazioni di Monti, in particolare su Fassina. E allora la necessaria trasparenza, scrive Angelo Panebianco, è quella sostanzialmente che viene chiesta al capo del PD Bersani rispetto al futuro, all'ipotesi di costruzione di un governo, dal momento in cui è almeno viene indicato come il candidato possibile alla guida, appunto alla conquista della presidenza del Consiglio. I sondaggi danno il PD come probabile vincitore delle elezioni, scrive Panebianco. La campagna elettorale è lunga e ciò che accadde nel 2006, quando Prodi, il grande favorito, vinse alla fine solo per un soffio, consiglia prudenza. Al momento comunque è plausibile ritenere che possa essere Bersani il prossimo presidente del Consiglio. Bersani sta annunciando da giorni, ogni giorno, le candidature nel suo partito. seguito delle varie personalità di prestigio. Sarebbe utile se cominciasse anche a dare qualche informazione agli elettori sulla composizione del suo possibile governo. È vero che in campagna elettorale i partiti cercano di non scoprire le carte, ma è perlomeno lecito chiedere al favorito dai sondaggi di fare un po' di chiarezza su questo decisivo aspetto. E qui l'esempio di Panebianco per, come dire, chiarire il punto della questione. Molti danno per probabile che Massimo D'Alema diventi il nuovo ministro degli esteri. Poniamo che sia vero. D'Alema ha già ricoperto quell'incarico ed è un politico preparato e autorevole. Nulla da eccepire. Ma c'è un ma. In un ambito che è strategico per la politica estera italiana, cioè il Medio Oriente, D'Alema non ha mai fatto mistero di certe sue radicate convinzioni. Soprattutto non ha mai fatto mistero della sua, chiamiamola eufemisticamente così, scarsa simpatia per Israele. Politica estera a parte, prosegue Panebianco, molto si giocherà sul piano dell'economia e delle riforme di struttura. È facile scommettere che Bersani, da politico accorto, sceglierà un ministro dell'economia ben accetto all'Europa e ai mercati, un tecnico di prestigio con il giusto pedigree e i giusti contatti internazionali. Insomma, mentre la campagna elettorale di fatto ha mosso i primi passi, questa mattina dal Corriere arriva una richiesta di chiarimento sulla compagine futura di quella che potrebbe essere la coalizione vincente. E intorno alle questioni interne del partito, interne ma naturalmente pubbliche del partito, c'è anche un rimando con fotografie ben in vista della colazione ieri avvenuta appunto Bersani Monti, un patto all'americana, scrive nelle pagine interne Francesco Verderami, tra il leader e il rottamatore, obiettivo di Bersani arginare il montismo con Renzi. Anzi, pagine interne sì, ma il retroscena viene richiamato dalla prima pagina. Dunque l'intesa tra Bersani e Renzi non è solo un'operazione di immagine di potere e non è solo una mossa mediatica in vista della campagna elettorale. Da ieri il PD ha cambiato pelle, è diventato, per usare le parole del sindaco di Firenze, un partito all'americana dove il timone è nelle mani di Pierluigi Bersani, mentre io darò una mano. È il suggello della sfida alle primarie, è un punto di partenza anche d'arrivo, perché chi è uscito sconfitto dalla sfida per la premiership accetta di collaborare con il candidato invece per Palazzo Chigi. E dunque questo, diciamo, per ciò che riguarda il PD, mentre sempre alle prese con il rebus del simbolo, i centristi al lavoro su un compromesso, nuovo vertice notturno, ci racconta Monica Guerzoni, tra Monti, Casini e Fini. L'obiettivo è cercare di risolvere il pasticcio dei simboli che impone a Mario Monti un vertice notturno appunto con Casini e Fini. E alla fine, racconta Guerzoni, dopo lunga tormentata discussione, i dubbi e le ansie dei centristi erano ancora tanti. Correre alla Camera con un listone unico come al Senato, schierare più liste differenziando i simboli. Questo è, diciamo, per quanto riguarda la coalizione del centro. Ancora dalle prime pagine, Monti in TV, scontro sulla RAI, sostanzialmente appunto lo stesso grande tema della politica in primo piano sulla Repubblica di questa mattina, che però affronta anche un altro tema, l'avete sentito nei GR, mi riferisco all'interruzione di una partita di calcio che appunto produce dibattito e ampie reazioni, perché l'oggetto della questione sono, ancora una volta viene da dire, e i cori razzisti nella curva. Il Milan esce dal campo. Ecco, è accaduto tante volte in realtà nei campi della Serie A. Invece la reazione di quella che è stata invece una partita amichevole è stata diversa, perché a un certo punto della partita i giocatori hanno semplicemente deciso di chiuderla lì, di uscire dal campo e andarsene. Commenti ce ne sono molti, io direi che li approfondiamo tra qualche momento. Vi anticipo solo una reazione su ci sono critiche, punti di vista diverse sulla decisione dei giocatori del Milan per Fabrizio Bocca di Repubblica è finalmente una reazione. Da lì partiamo tra qualche momento. 7:32 minuti, ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Questa settimana con l'incarico di sostituire il buon Alessandro Milan. Mi viene da pensare molto ad Alessandro Milan, perché Alessandro Milan ci porterebbe perfettamente, lo possiamo dire, non credo che sia un segreto, nonostante il nome, la sua vera passione calcistica lo porta verso la propatria di Busto Arsizio, oggi al centro di tutte le aperture e i titoli per questa vicenda. Lo ricordo, una partita amichevole. Si gioca, fischi, proteste, insomma, a un certo punto però il giocatore del Milan, Boateng, prende il pallone, lo scaglia a 200 all'ora, qualcuno sostiene, contro il pubblico, e lì il Milan, dopo breve conciliabolo, prende e se ne va. Allora, Fabrizio Bocca su Repubblica dice: finalmente una prima reazione, la prima partita nella storia del calcio italiano, una semplice amichevole, Pro Patria Milan a Busto Arsizio, sospesa per razzismo contro Boateng e gli altri giocatori di colore. È uno di quei record della vergogna che ci mancava, scrive a Bocca. La spiegazione è banalmente dentro quel progressivo scivolamento del calcio nell'inciviltà che colpevolmente non siamo riusciti a impedire. Anche in qualche caso abbiamo persino tollerato, basta ricordare i vari casi Balotelli. Però, prosegue Bocca, il pallone scagliato con rabbia in tribuna da Boateng è il gesto simbolico che rompe finalmente l'ipocrisia dei regolamenti fasulli mai applicati, delle convenzioni furbesche sulla sacralità della partita da concludere a ogni costo, di tutti quelli che fingono di non sentire i bu, di non vedere gli striscioni sui negri, sui morti di Superga, sull'Isel, dell'arbitro che fa lo struzzo nascondendo la testa sottoterra, insomma di tutti quei nessuno che mai finiscono in cella, di tutti quei presidenti che comunque se li tengono buoni e di tutti quelli che fanno il distinguo. E quanto succede a Napoli, a Verona, che ne dice di quei casi lì? Insomma, e di quei sindaci come quello di Busto, che prende le distanze dagli ultras senza mai chiamarli razzisti e li definisce sparuta minoranza di deficienti, e dà anche un po' di colpa al poco professionale Boateng. Insomma, con il razzismo non si gioca, punto e basta. Così Fabrizio Bocca oggi dalla prima pagina di Repubblica, e nelle pagine interne naturalmente spazio ampio di dibattito. Allegri è stato esplicito, l'avete sentito in voce a Radio 24 poco fa, una risposta agli incivili, dice: non si poteva più giocare. E devo dire che questa mattina è esplicito anche La testata sportiva per eccellenza, la Gazzetta dello Sport, parla di razzismo, il calcio se ne va, e fin qui non c'è nulla di particolare, però molto in vista nella prima pagina si parla anche della gaffe del sindaco, insomma della scelta esplicita di Allegri e Barbara, che per gli appassionati di calcio il cognome non viene messo, ma ovviamente Barbara Berlusconi, quindi presidente della società o vicepresidente, ora mi viene un dubbio ma lo chiariremo, insomma così dice Barbara Berlusconi, va fatto anche in Serie A. E Lilian Thuram che commenta: bravi, in Italia giù il muro. Lilian Thuram, stella del passato calcistico italiano, che spesso è stato, diciamo, protagonista e si è assunto anche il peso di una vera e propria battaglia civile all'interno degli stadi italiani. Ecco, insulti e bu, Boateng e il Milan dicono basta razzismo, il calcio se ne va. Nelle pagine interne i racconti sono ricchi, anche il titolo che troviamo a pagina 4 e dice: ma sentite il sindaco di Busto, ha sbagliato pure Boateng. Farioli dice: colpa di 4 deficienti, magari anche di 4 professionisti che non hanno saputo fare il loro lavoro, a cominciare dall'arbitro. Insomma, il sindaco sceglie questa posizione per cui sono tutti uguali, il razzismo è un termine che non si usa, e hanno sbagliato tutto. Ma per una volta quello che emerge molto chiaramente è che anche insomma, la stampa sportiva, che evidentemente anche per atteggiamento punta, come peraltro la maggior parte delle persone normali, a far sì che le partite siano giocate, meno parlate e più vissute, prende una posizione esplicita. Nella pagina accanto, a pagina 5, Thuram, bravi, rompiamo il muro dell'indifferenza. Un'intervista dell'ex difensore che dice: un gesto stupendo, così il Milan darà una svolta. Bene, complimenti al Milan dunque, complimenti al Milan. E poi, visto che abbiamo toccato questo tema, non posso non ritornare nel grande tema della politica attraverso un percorso piuttosto originale che oggi il giornale fa. Allora, si parte dal titolo: il razzismo di Monti. Insulti a chi lo critica, scrive il giornale di Sallusti. Il professore perde la testa, chiede a Bersani di silenziare Fassina e ironizza sulla statura di Brunetta. E caos sull'occupazione della RAI. Ma nel suo fondo dice: due episodi di allarmante razzismo ieri in Italia. Il primo a Busto Arsizio, e lì appunto il collegamento di due temi così distinti, dove i tifosi della Propatria, forse distinti, dove i tifosi della Propatria hanno intonato i cori razzisti. Il secondo, più grave, su Rai 1, dove Monti ha ironizzato sull'altezza fisica del ministro Brunetta e ha chiesto di silenziare le ali radicali del PD. E Sallusti dice addirittura: Monti si svela così peggio di un razzista da stadio. Ecco, dal fondo poi nel taglio basso c'è invece il cucù di Veneziani, che completa un po' questo percorso attraverso la prima pagina del giornale. Il titolo è: l'uomo nero non fa paura ai neri. È una riflessione interessante questa, che riguarda appunto percezioni, sensibilità, razzismi consci o inconsci nella nostra società. E Veneziani dice: due africani capeggiano le liste antagoniste alla regione Lazio, quella del PD e quella della destra. Il candidato di Storace è Fidel Mbanga Bauna, congolese, giornalista, conduttore del TG3, plurilaureato e pluripadre, da sempre simpatizzante di destra. Non è di quelli che Berlusconi può definire abbronzato come Obama, è proprio nero nero, come dice la canzone napoletana. Ma parla un italiano che molti italiani non sanno parlare, ama l'Italia come molti italiani non sanno amare, e sa bene che il razzismo è un piccolo partito di deficienti trasversali. Di nuovo, torna. Però in questa riflessione è importante sentire, è interessante la posizione appunto di un uomo di destra come Veneziani, perché prosegue: qualche anno fa, dopo averlo visto condurre una serata con bravura ed equilibrio, lo proposi in Rai per condurre la striscia di informazione dopo il TG1. Sarebbe stato un bel messaggio agli italiani e agli immigrati, avrebbe spiazzato tutti con un italiano vero e nero, colto e gentile, non di sinistra. Ma i gerarchi politici e televisivi non vollero. Perché dice tutto questo Veneziani? Perché sostiene che la storia sia vecchia, e cioè che se un nero si candida a sinistra è un messaggio di integrazione e solidarietà, ma se si candida a destra è demagogia scimmiesca nel senso dell'imitazione. Veneziani conclude: a me sembrano invece buoni esempi da seguire, e nello specifico ambidue i candidati rispettabili. L'Italia è degli italiani e di chi la ama e la rispetta. Eccoci qua. Dunque, come vedete, i percorsi sono... Si intrecciano anche nella complessità, ma il tema dunque del razzismo, del cambiamento della nostra società. Ieri vi ho letto quell'interessante articolo, quella storia che ci raccontava come appunto Padova, una città tradizionalmente cattolica, abbia fatto una scelta molto precisa sui nuovi nati, aprendo prima che di fatto la legge lo riconosca in maniera esplicita al riconoscimento del partner anche nelle coppie non eterosessuali. Insomma, i mutamenti sociali a volte, anzi spesso, regolarmente avvengono lungo percorsi diversi da quelli del mainstream della politica che intanto si attrezza a questa fase elettorale. Cambiamo decisamente tema e andiamo invece alla prima pagina di Libero, ma questa volta davvero lo troviamo su diverse testate. C'è una vignetta che descrive Putin e Depardieu. Cittadinanza russa a Depardieu, imposte al 13%. così Putin batte la crisi. Insomma, Depardieu è diventato una vera e propria icona di una certa battaglia, anche di un dibattito europeo sul senso della fiscalità, sul senso della distribuzione delle ricchezze, oppure d'altra parte sull'oppressione appunto vera o presunta del fisco. Tant'è che dopo avere denunciato appunto la posizione del suo presidente, del presidente Hollande, la misura appunto di gravare ulteriormente, pesantemente la fiscalità dei più abbienti, Depardieu aveva annunciato e fisicamente l'ha fatto un trasferimento in Belgio. Nel frattempo però sembra che gli sia piombata addosso, e dico piombata addosso perché pare che Depardieu non l'abbia nemmeno chiesta, una nazionalità russa. Allora, l'attore francese in fuga dal fisco rapace di Hollande scrive questa mattina su Libero Carlo Nicolato, diventa russo e soprattutto ecco come il nuovo zar vuole attirare i ricchi e le imprese dell'UE. La prima mossa fu nel 2001, una flat tax, cioè uguale per tutti, indistintamente non una qualsiasi flat tax, ma una con un tasso del 13%, il 61% in meno dell'aliquota introdotta da Hollande lo scorso anno, il 30% in meno della media europea. Come per magia, complice un opportuno aumento del prezzo del petrolio, per la quale la Russia è il primo esportatore mondiale, un anno dopo l'economia di Mosca ha iniziato a crescere in modo significativo. Ora, anche tutti i collegamenti ovviamente sono legittimi. La storia della fiscalità in Russia probabilmente è un po' troppo complessa e distante da quella che noi siamo abituati a conoscere. La Russia è stato un paese in cui fondamentalmente non c'era la fiscalità per decenni. L'introduzione e il reddito e la divaricazione del reddito ha fatto sì anche che negli anni della transizione l'ipotesi di attingere, di pescare dal reddito fosse per lo più fantasiosa. Ma comunque oggi è un'attualità che evidentemente interessa i super ricchi e che vede la Russia porsi in quel gruppo di paesi che anche all'interno addirittura dell'Unione attirano con appunto le sirene di una bassissima fiscalità e di un'attenzione molto bassa a quelli che sono i guadagni individuali. Nel frattempo voglio essere puntuale almeno questa mattina, 7:45 minuti, Filippo Reggi mi dà il via libera, abbiamo gli aggiornamenti per chi è in viaggio, poi proviamo ancora a concludere su questo tema. 7:46 minuti, Monti si apre il caso Rai, l'apertura di questa mattina del Corriere della Sera. Dunque, il presidente della Vigilanza parla di sgarro alla par condicio e la polemica monta, a proposito dei giochi di parole, intorno a Monti per le richieste di silenziare gli estremisti, quelli che definisce estremisti in PD e PDL. Molti i commenti intorno a questa vicenda, così come ampio spazio e risalto viene dato all'incontro, alla colazione tra Bersani e Renzi, i segreti del patto tra Bersani e Renzi promette invece il Corriere. D'altra parte, tra le aperture vi ricordo il nuovo redditometro, meccanismi e funzionamento, quindi nel dettaglio raccontati oggi dal Sole 24 Ore, che in prima pagina appunto apre su questa notizia, ma anticipa anche nelle pagine interne quello che è il decreto sui voucher per le babysitter, quindi le famiglie, paternità, maternità, insomma l'attualità vera, quella della quotidianità delle famiglie italiane. Naturalmente, dico naturalmente perché ne abbiamo già parlato abbondantemente, la notizia dell'interruzione repentina di un amichevole del Milan, tra il Milan e la Propatria. Razzismo, il calcio se ne va, clamoroso a Busto Arsizio, amichevole interrotta. Allegri e Barbara Berlusconi dicono così si deve fare anche in Serie A. Ma noi stavamo parlando invece di una vicenda che come dire, sembra più leggera, magari nello specifico lo è, cioè il fatto che l'attore francese Depardieu, peraltro che ha coperto diversi ruoli dei classici della lettera russa trasposti nel cinema, ottiene, o meglio riceve, pare non richiesta cittadinanza russa, ma il tema evidentemente che che sottende quello ben più ampio della fiscalità, del ruolo della giustizia, equità fiscale oppure ingiustizia e oppressione fiscale. Naturalmente i punti di vista sono molto lontani. Ecco, per chi appunto racconta la vicenda come Libero sul fronte delle iniziative prese da Putin per battere la crisi e attirare i capitali, c'è anche chi ne fa come Massimo Adinolfi oggi sull'Unità un commento di taglio decisamente diverso e scrive: se vi pare che giustizia, equità, anzi eguaglianza debbano ispirare le politiche pubbliche, se il principio della progressività fiscale vi sembra una conquista democratica, se credete che tra Italia le prestazioni dello Stato sociale e i contributi straordinari richiesti a un segmento sempre più ricco ed esiguo della popolazione sia da preferire quest'ultima strada, cioè la strada che nella parte antecedente del commento è, diciamo, la linea Depardieu per comodità e forzando la cosa. Ecco, se vi sembra tutto questo, e infine se trasferire la propria residenza all'estero o prendere un altro passaporto non vi sembra il massimo del patriottismo e della solidarietà, ma al contrario vi puzza di egoismo sociale, allora qualche film con Depardieu magari lo vedrete ancora, perché Depardieu resta Depardieu, ma di simpatizzare col suo volto guascone proprio non vi riuscirà più. Ecco, su questo aspetto, proprio su questa anche sentimento e reazione di pelle, nei giorni scorsi la stampa francese è stata letteralmente invasa, insomma molte critiche anche trasversali agli schieramenti politici, quindi dalla destra che storicamente Depardieu sostiene, ma insomma indipendentemente da questo c'è assolutamente una riflessione sull'equità fiscale, che questa vicenda comunque con tutte le sue declinazioni continua a sollecitare e a sollevare. Vedremo come risponderà Depardieu, vedremo se intanto accetterà o meno questa offerta dello zar Putin, che davvero è tale, visto che da anni di fatto è il protagonista della scena politica della grande madre Russia. Altri titoli da Avvenire: domande civili alla nuova politica e l'apertura di Avvenire sul dibattito e le richieste delle associazioni e dell'agenda dei movimenti cattolici, mentre per il Fatto Quotidiani è Monti e B sequestrano le TV. Il Fatto Quotidiano dice: il premier torna uno mattina, insulta Brunetta per la statura, intima Bersani di silenziare Fassina e Vendola, Zavoli, vigilanza, grida allo sgarro e la RAI annulla l'intervista dal professor Giletti, mentre il Caimano va al TG1. Ancora invece, sempre nella prima pagina del Fatto Quotidiano, c'è invece una notizia che riguarda un procedimento legato alla diffamazione, e la foto è quella di Beppe Grillo. Il testo dice: il Cavaliere vince un processo, Grillo deve pagargli 50.000 euro. Questo per alcune delle altre prime pagine. E la Padania, dunque l'organo della Lega, dice: preparate un assegno di 585 euro, è intestato al prof, a tanto ammonta la stangata fiscale che ogni famiglia dovrà sostenere quest'anno grazie all'eredità del governo e del governo delle tasse. Messaggero: oltre ai temi che abbiamo toccato ce n'è uno che si aggiunge, riguarda la scuola e il caos delle iscrizioni, accorpamenti da rifare, famiglie in difficoltà nella scelta dell'istituto dopo la bocciatura del piano Gelmini e Monti. Ecco, a proposito di rientri e di vita reale, leggiamo: sono da rifare gli accorpamenti delle scuole previste dalla finanziaria 2011, oltre 2600 istituti erano stati accorpati e ad altri per creare scuole con non meno di 1000 alunni, un provvedimento taglia spese che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo. E allora caos iscrizioni. Ancora, e siamo verso la conclusione, il silenziatore, eccolo qua, a proposito di titoli secchi, il Manifesto: come è più di Berlusconi, Mario Monti imperversa in TV e detta al suo editto a Bersani. Insomma, battaglia aperta sul fronte e sul dialogo, insomma per ora ridotto un po' al lumicino, tra sinistra e Monti. Abbiamo ancora qualche istante, allora vorrei segnalarvi una piccolo approfondimento su quello che è una notizia, diciamo, internazionale, ma che riguarda un po' tutti, con un investimento di $500 milioni, Al Jazeera acquista Current TV di Al Gore. Doha, gli Emirato, quindi l'Emirato del Qatar, grande manovra, una potenza economica piccola e nello stesso tempo sempre più presente nelle grandi iniziative economiche e commerciali, e storicamente presente con Al Jazeera anche nel mondo dell'informazione e dei media. Ecco, da una parte un deluso Al Gore, che aveva creato Current TV 7 anni fa con l'obiettivo di raccontare le storie che nessun altro racconta e dar voce a chi non viene ascoltato, e Al Gore, si potrebbe dire ancora una volta, è sconfitto. Dall'altro però quella che Marco Bardazzi dalla prima della stampa questa mattina definisce la rivincita dell'antenna dei terroristi. Ora, Al Jazeera è veramente un pezzo di storia contemporanea dell'editoria multimediale. Così, per rinfrescarci un po' la memoria, leggiamo qualche passaggio. Il 2013 sembra lontano anni luce dal 2003. La mattina di quell'anno il reporter palestinese Ayub stava lavorando nell'ufficio di Al Jazeera a Baghdad per raccontare al mondo le convulse fasi dell'attacco americano in corso. Un missile made in USA colpì la redazione mentre Tarek scriveva un servizio sulle famiglie in fuga. Le schegge lo ferirono a morte, il Pentagono si scusò, disse un errore. Al Jazeera, dal quartier generale di Doha, rispose indignata di aver fornito agli americani le coordinate esatte dell'ufficio. La vicenda fu archiviata come uno dei tanti sbagli che avvengono in guerra, ma il sospetto sull'accaduto restò a lungo, alimentato dall'evidente insofferenza di molti falchi dell'amministrazione Bush per quella televisione che mostrava massacri senza censure e lasciava che Bin Laden sproloquiasse su crociati e sionisti. Ecco, questo accadeva 10 anni fa. Oggi una potenza del mondo arabo che entra con peso nel mercato dei media americano. Una storia di cui sicuramente avremo modo ancora di sentire parlare. Per ora è tutto, un saluto e noi ci sentiamo più tardi. 8:16 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli, da Filippo Aureggi in regia, da Alessandro Longoni in assistenza. Dunque, in questo venerdì 4 gennaio, questo ultimo appuntamento di settimana con 24 mattino, ecco, in passato, secondo tradizione, occhieggiando e salutando la Befana in arrivo, avremmo, come dire, parlato e raccontato e misurato quelli che sono gli effetti di una vera e propria classico, di fatto un elemento della liturgia delle feste, cioè quello dei saldi. Vi leggo un appunto che arriva da Napoli e racconta come 2 giorni fa, appunto la prima giornata di saldi, abbia portato negozi deserti, via dello shopping non affollate. La fotografia del primo giorno di saldi ufficiali a Napoli è questo. A nulla al momento, scrive appunto l'agenzia riferita, come vi ho detto, 2 giorni fa, sembra siano valse le vetrine allestite con vetrofanie scritte che annunciano i ribassi, che in alcuni casi sperano nella scaramanzia. Nonostante i ribassi, che vanno dal 30 al 50% con punte del 70%, i commessi hanno trascorso la mattina da soli nei negozi. Insomma, un bollettino di guerra, una davvero immagine che è uno scatto, speriamo, come dire, che si possa anche modificare nel corso di queste giornate, ma che evidentemente non ci può certo stupire. Questo è l'inizio di quello che speriamo essere l'ultimo anno della crisi, ma di certo ne porta tutti i pesi e i costi. Basta rimandare alcuni dei titoli che abbiamo letto questa mattina: tasse in aumento per 14,7 miliardi, 585 euro a famiglia al costo, ma anche l'eurozona che va verso i 20 milioni di disoccupati. E insomma, la situazione è sotto gli occhi di tutti. D'altra parte, cerchiamo di capire come, anche se questo in qualche modo è l'ultima scena di uno dei rituali della società dei consumi che abbiamo raccontato per tanti anni, ci aiuti a farlo, e lo ringrazio di essere con noi, Aldo Bonomi, sociologo, direttore di ricerca Istituto Aster. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo all'ultima pagina dei saldi? Sì, direi buon anno nonostante l'inizio. Grazie, altrettanto. Siamo così svegliato gli ascoltatori, ma direi da questo punto di vista aggiungerei un numero di tristezza ai 20 milioni di disoccupati. Nell'eurozona sono censiti 120 milioni di poveri, e questo per dare l'ultimo colpo, diciamo così, alle notizie problematiche. Ecco, 120 posso... milioni di poveri nel mondo della ricchezza. Prego. Allora, se posso iniziare con un ragionamento un po' più complicato, poi arrivo ai consumi. Prego. Io credo che dobbiamo tener conto che nella metamorfosi della crisi, perché io credo che la crisi sia una metamorfosi, non sia semplicemente un semplice attraversamento, beh, in questa metamorfosi in cui cambia, diciamo così, i modelli produttivi, la competizione globale, i modelli di produrre, cambiano anche gli stili di vita e cambiano anche i consumi in questa metamorfosi. Però in questa metamorfosi mi pare che un dato importante è che ovviamente abbiamo attraversato tutto il 2012 dentro una, diciamo così, realistica, diciamo, usiamo questo termine, perché poi queste cose vengono interpretate anche rispetto alle prossime elezioni, diciamo, dentro una realistica presa d'atto che esiste lo Stato indebitato. Lo Stato indebitato ha prodotto in parte un'antropologia diffusa dell'uomo indebitato, e da qui bisogna partire per capire anche, diciamo così, il freno alla frenesia dei consumi e alla frenesia della visione dell'uomo indebitato, che prima invece avevamo l'unica concezione dell'uomo utente o dell'uomo cliente o dell'uomo consumatore. Ecco, una concezione che ovviamente ha avuto il suo periodo a sua volta di affermazione e crescita. Dunque, 2012, diciamo l'anno della presa di coscienza, da cui ripartire con che possibilità, che strumenti? Posso partire anche da un altro dato che avete dato voi all'inizio trasmissione, quei 510 580 euro di aumenti, per cui i costi che ci saranno nel 2013 per una famiglia rispetto ai servizi eccetera sono un aumento di 580 euro, scaverei anche in quei 580 euro che probabilmente anni prima o anche nell'anno 2011, anche nell'anno 2012 non erano così drammatici, quindi quei 500 euro si poteva pensare che venissero destinati al consumo e ai saldi da tanti punti di vista, e quindi questi sono i dati reali. E sono i carichi di cui ciascuna famiglia appunto si porta in questo inizio 2013. Con una notazione in più però, perché voi avete dato i dati di Napoli, sarei curioso di sentire quando inizieranno, appena inizieranno i saldi nelle vie, diciamo così, dei parchi a tema del consumo, quali sono i dati che riguardano ad esempio il quadrilatero della moda a Milano, la via Monte Napoleone, cioè, a via della Spiglia, perché poi sappiamo tutti che il vero dramma è che non c'è crisi e non c'è una dimensione di crisi che riguarda la dimensione del lusso, invece c'è una crisi che riguarda la dimensione più diffusa, perché poi l'altro dato è che in questo anno sono aumentate le polarizzazioni, quindi questo è l'altro dato su cui divaricazione sociale che nel corso del 2013, cioè a proposito di metamorfosi, è arrivato a un'altra fase estrema. E quindi ci vorrà, a mio parere, e stiamo entrando in questo, un periodo in cui probabilmente è auspicabile che la forbice si riduca, perché poi è solo attraverso una dimensione della forbice che si riduce che attraverso la sobrietà, usiamo questo termine, che non significa povertà, la sobrietà significa semplicemente cambiare in parte lo stile di vita e in parte i modelli di consumo, ci vorrà tempo rispetto a questo, ma soprattutto credo che sia anche un compito non solo del consumatore, che viene brutalmente rieducato, usiamo un termine di questo genere, dalla crisi, ma credo che sia anche come cambieranno i modelli di produzione, i modelli di produzione delle merci, l'attrattività e il modello della pubblicità, credo che su questo bisognerà fare un ragionamento molto ampio. Non credo che sia solo un problema di passaggio per cui poi torneremo agli anni gloriosi o agli anni lussuriosi del consumo sfrenato, eccetera. Ci sarà una transizione, mi pare di capire che molte imprese, anche lo stile pubblicitario di molti, anche dei maestri del lusso, incomincia a cambiare rispetto a questo. Tra parentesi, abbiamo visto che ci sono, diciamo così, nicchie di comportamenti, ma che poi sono comportamenti di minoranza, ma che però a volte anticipano modelli molto più ampi, in cui ricordo ad esempio che nelle interviste che sono state fatte prima, durante le vacanze, durante il Natale, ad esempio il modello dei regali, del riciclo, del riuso, eccetera, è venuto avanti. Non è che voglio terrorizzare nessuno, non è un problema, non andiamo verso una società solo del riciclo, ovviamente ci sarà produzione di merci, eccetera, però questo modello lentamente cambia e quindi è un problema di passaggio complessivamente dell'economia e dei consumi, dentro il quale ovviamente la transizione è una transizione che riguarda non solo i consumatori, non solo quelli che vanno a fare i saldi da questo punto di vista, ma riguarderà anche, tenete presente che ci sono dati che io non ho adesso presente nella loro dimensione quantitativa, ma quanti sono i negozi che dentro il cambiamento, dentro la crisi cambiano. Tenete presente che questo è un altro dato drammatico, un altro dato da tenere in conto rispetto a questo. Ecco, in questi tempi si parla molto di cicli, quello che vale la pena forse approfondire, riflettere sul fatto che non necessariamente un ciclo significa un ritorno. Quello che lei sta raccontando e che molti condividono è il fatto che questa crisi non sarà conclusa con un ritorno a quel tipo di mondo. Allora, ci sono degli oggetti, delle situazioni anche fortemente simboliche in questo senso, forse una su tutte, l'automobile per gli italiani è stata veramente una seconda moglie, almeno forzando un po' la realtà simbolica. L'automobile che va in crisi, mentre i dati ci raccontano di successi in quel mondo che sta entrando nel benessere più diffuso, con tutti i limiti del caso, mi riferisco al Brasile, all'India e così via. Ma insomma, l'automobile può essere un simbolo di questa trasformazione? Ma io credo che se uno dovesse eleggere dal punto di vista del consumo, della pubblicità e anche dell'espansione, l'automobile è stato il simbolo del Novecento, non c'è dubbio, la macchina, usiamo un termine ancora certo, più macchina. Banale, la macchina è stato il simbolo del Novecento, non solo perché è stato il simbolo principale del fordismo, non complichiamo i ragionamenti, no? E della dimensione, diciamo così, dell'accesso al benessere e al consumo di ampie fasce. Basti pensare alla frase di Henry Ford: compri una macchina del colore che vogliono purché sia nera, no? La standardizzazione del consumo di massa è questo che ha caratterizzato tutto il Novecento, ma non solo. L'automobile è stato anche il simbolo dei modelli pubblicitari, dei modelli di affermazione, di potere, di lusso. Ha finanziato la comunicazione anche in anni, per molti anni, dubbio, creando i modelli. Ed è stato per noi italiani, per l'italietta, dalla 500 alla 600, il simbolo del nostro benessere, del nostro arrivare in questa dimensione, simbolo di un benessere che vediamo oggi trasferito nei BRICS che lei citava prima, Brasile, India, Cina, eccetera, che sono in espansione, e lì i numeri sono tutti in salita, mentre invece da noi i numeri sono tutti in discesa. Ma proprio l'automobile credo che sia un simbolo giusto, perché intorno all'automobile si sta ragionando di come cambia quel prodotto. Non è un caso, anche qui per citare cose che non riguardano domani, ma probabilmente riguarderanno dopodomani, se uno pensa a che cos'è, a qual è il rapporto tra l'automobile e la green economy, non c'è dubbio che tutto il ragionamento su nuova limitazione dei consumi, non solo più benzina e petrolio, ma altri modelli di energia, eccetera, intorno all'automobile c'è intorno un grande livello di ricerca e di cambiamento rispetto a questo. E qui c'è anche spazio per l'ottimismo, tra l'altro, quindi nuove tecnologie, nuovi mercati, nuove capacità di produrre nuovi oggetti che raccontino magari una storia leggermente diversa. Sa, io ho usato il termine metamorfosi, non tragedia. La metamorfosi è un cambiamento. Certo. Cambiamento è una mutazione, dentro il quale ovviamente ci sono fasi di transizione che sono anche feroci, drammatiche, problematiche. Ricordo sempre, mi spiace di farlo in una trasmissione, diciamo così, dedicata ai consumi e al commercio, i 120 milioni di poveri da cui siamo partiti a inizio trasmissione, e quindi ovviamente bisogna occuparsi anche, questi sono problemi urgentissimi, come sono poi problemi urgenti e di grande cambiamento, il cambiamento rispetto al modello dei consumi, eccetera. Ecco, l'automobile è un simbolo. L'automobile è senz'altro un simbolo. A proposito di simboli, Bonomi, io leggo oggi dalla stampa, ma è un tema che noi abbiamo affrontato spesso, direi con regolarità, quello che riguarda il gioco d'azzardo. Oggi il titolo è La scommessa persa della nostra speranza. Un anno fa mi ricordo perfettamente di essere stato qui con una serie di ospiti per affrontare quello che avvertivo come un dilagare senza confini, senza limiti del gioco d'azzardo, soprattutto online, come sostitutivo a modelli appunto di speranza, di lavoro, di costruzione sociale, di educazione. Bene, oggi leggo: meno soldi per tutti, nemmeno le promesse di ricchezza illudono più. L'azzardo è stato via di fuga, è un prodotto particolare in sé? Ma ci sono saggi estremamente interessanti che consiglio la lettura, che dimostrano che c'è una psicopatologia del gioco. Ricordo, anche qui credo di citare correttamente, le mamme e le donne di Pavia, che si sono, che è la città che è a più alto tasso di nevrosi da macchinette, che si sono mobilitate rispetto a questo discorso, del gioco d'azzardo, che produce nevrosi e che produce ovviamente una simbiosi tale che porta ovviamente, e ricordo ad esempio che la patologia da gioco d'azzardo è stata introdotta, mi pare, nell'ultima riforma sanitaria come una delle patologie sì, fa parte delle novità del 2013, proprio dell'elenco, e finalmente la comprende. E quindi siamo a questi punti, e ovviamente il problema che va dal gratta e vinci alle terribili macchinette, ovviamente è un problema drammatico che dentro la crisi viene esplicitato come, diciamo così, provo a risolvere i miei problemi in questo modo. Purtroppo i problemi non li risolveremo, i soggetti non risolveranno i loro problemi con il gioco d'azzardo, c'è un problema collettivo e complessivo dentro il quale questa nevrosi e questa dimensione va presa in considerazione. Su questo sappiamo tutti che c'è anche questo ampio dibattito, che poi il padrone e colui che usufruisce di più del gioco d'azzardo è lo Stato. Certo. Altra cosa che ovviamente bisognerebbe incominciare a ragionare anche su questo, ovviamente, perché è come se uno dice: produco la malattia e nello stesso tempo ti do, diciamo così, non la cura, ma diciamo così ciò che ti fa star male. Insomma, anche questo oggi lo racconta questo approfondimento che vi ho citato a cura del nostro Gianluca Nicoletti sulle pagine della stampa, La scommessa persa della nostra speranza. Anche questo una misura naturalmente non esclusiva di questo, all'interno di questa metamorfosi, e quindi uso direttamente la definizione del professor Bonomi, che ringrazio di essere stato con noi questa mattina. Lo ricordo, Aldo Bonomi, sociologo, direttore di ricerca dell'Istituto Aster, e il racconto di questo inizio d'anno passa attraverso anche i rituali che evidentemente tendono a sbiadire, a svanire, quello dei saldi, almeno nella sua portata di grande festa, nella fine delle feste, decisamente è qualcosa che la cronaca ci racconta, ci lasciamo alle spalle, ma non per questo non ci sono altri rituali, altre strade da percorrere, ci sono senz'altro. 8:33 minuti, è tempo di lasciarci per qualche istante, poi torniamo a parlare anche il professor Bonomi un istante fa ha usato il termine sobrietà, ecco, sobrietà che è un po' quella che in realtà ad ogni campagna elettorale viene citata. Forse quello che sorprende questa volta, che come nel commento del Sole 24 Ore viene associata e invocata legandola al presidente del Consiglio uscente Mario Monti, ecco, probabilmente questo non ce l'aspettavamo. Torniamo subito. Sono le 8:36 minuti, ancora un saluto, un buongiorno da Gigi Donelli. Questa mattina dunque a 24 mattino parliamo, abbiamo parlato di consumi, abbiamo parlato naturalmente come sempre, abbiamo visto alcuni degli spunti dalla rassegna stampa, la politica in primo piano, la campagna elettorale in corso e già arriva un appello che possiamo sintetizzare con quello che di fatto leggo come tale sul Sole 24 Ore stamattina. Sobrietà, era Alberto Rioli che diceva in estrema sintesi: non è necessario berlusconizzarsi per battere Berlusconi, questo rivolto ovviamente a Mario Monti, ma insomma il tema della campagna elettorale che di fatto ha mosso i primi passi, mancano 7 settimane e già siamo agli appelli, chissà, forse non ci aspettavamo che sarebbe stato così rapido, una campagna elettorale che tra l'altro coinvolge per la prima volta una generazione che non sarà decisiva, diciamolo subito, quella dei nativi digitali, una generazione appunto di diciottenni per la prima volta al voto, ma che introduce delle novità nell'ambito probabilmente di un canone e di un rituale classico. Ne parliamo questa mattina con Massimiliano Panarari, che è docente di comunicazione politica all'Università di Modena e Reggio Emilia. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a lei e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio 24. E alla dottoressa Michela Pensavalli, che invece è una psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Allora, Panarari, ce l'aspettavamo che dopo diciamo pochissimi passi di essere già al punto degli appelli alla sobrietà? Questo in realtà, così io ho più volte detto che forse non mi sarei aspettato che questo fosse associato direttamente alla figura del presidente del Consiglio uscente Monti, ma tant'è, per lei è sorprendente o fa parte in fondo della norma di questo rituale? Io direi che rientra un po' nella norma di questo rituale, nel senso che noi siamo un paese in campagna elettorale permanente da parecchio tempo a questa parte, data anche l'instabilità dei nostri governi o la difficoltà a fare durare le legislature fino alla fine, e naturalmente nel caso del presidente Monti, trattandosi di una forza politica nuova, di una formazione politica che deve posizionarsi sul mercato elettorale, come si dice in questi casi, è chiaro che utilizzerà tantissimo e da subito la comunicazione politica. L'altro elemento è che siamo un po' malati quasi di un eccesso di comunicazione, il che non significa necessariamente saperlo usare nel migliore dei modi e nella maniera più efficace, ma si usa tanto, io penso che ne vedremo tantissime, delle belle e necessariamente anche delle brutte nel corso di questi due lunghissimi mesi che ci attendono. Ecco, in uno dei titoli di questa mattina riguarda la RAI, mi viene da sorridere perché regolarmente c'è diciamo qualcuno, più di uno, che sostiene che il voto non si conquista in televisione, dopodiché lo scontro, diciamo la corsa è immediatamente in quella direzione e anche sulle radio naturalmente, e le reazioni appunto si concentrano su questi temi. Si ha un bel dire che siamo entrati in un nuovo tempo, che i social networking utilizzano consumano diciamo la nostra attenzione in maniera diversa. La sensazione è che prima di tutto, una volta si diceva tutti maledetti e subito, insomma, in televisione. Panarari, è ancora così? Ha assolutamente ragione lei, sì, le radio sono importanti, in questo paese la campagna elettorale si decide molto nella televisione generalista, che rimane decisiva soprattutto perché costituisce la principale fonte di informazione, diciamo anche in alcuni casi l'unica modalità di approvvigionamento delle informazioni sul resto del mondo per una parte della popolazione, e come sottolineava prima, la corsa a occupare gli schermi, i piccoli schermi, è scattata immediatamente. Lì si è giocato tantissimo nel corso del ventennio precedente, chiamiamolo così, quello dominato dalla figura di Silvio Berlusconi, e non a caso si pensa che ancora si giochi tanto della partita elettorale. Io penso giustamente, perché quello rimane un medium fondamentale fondamentale da questo punto di vista. Dottoressa Pensavalli, siamo in un paese in cui una nuova generazione che si affaccia al voto per la prima volta, quella dei nativi digitali, peraltro avranno modo di esercitarsi l'anno prossimo, mi viene in mente ci sarà il tempo delle parlamentari europee, delle grandi elezioni del Parlamento europeo, insomma una nuova generazione che usa strumenti diversi che, l'ho detto all'inizio, non è determinante, ma questo semplicemente per una questione appunto di piramide, di costruzione demografica del nostro paese, una generazione che segue altri percorsi. Davvero, secondo lei, questi diciottenni, diciannovenni saranno anche loro condizionati come la maggior parte di noi dal ex tubo catodico o vanno altrove? Ma diciamo che i nativi digitali rispondono per primi a questa rivoluzione antropologica e cognitiva che è in corso. Se parliamo per esempio dei social network come Twitter, lo possiamo immaginare davvero come un motore rivoluzionario della politica online. Diciamo che in qualche modo Twitter certifica, è virtuale che certifica il reale. I ragazzi si informano attraverso la rete e diciamo che possiamo parlare di un'azione collettiva però fatta dai quick attivisti, cioè da persone che prendono spunti di riflessione e commentano anche la politica attraverso la rete. Ovviamente questo non deve far pensare che l'attivismo in rete sia equivalente all'attivismo offline, perché chiaramente il senso poi di partecipazione rimane diverso, però pensiamo a tutte le piccole rivoluzioni, per esempio in tanti paesi si assiste proprio a un vero e proprio mutamento, cioè il voto elettronico, esistono vere e proprie città digitali, ad esempio come è successo ad Amsterdam qualche anno fa, intorno al 94, c'è stata una sorta di rivoluzione, quindi una comunicazione fatta attraverso la digitalità. Pensiamo però che i nativi digitali, che sebbene abbiano cervelli diversi, pensiero multitasking, cioè sono capaci di fare più cose contemporaneamente, leggere e twittare, chattare, studiare allo stesso tempo, sono anche però persone che hanno perso qualcosa dal punto di vista dei comportamenti, che diventano più adesivi, a volte diventano psicosociofobici, questo nei casi estremi, per cui sebbene la rete sia molto agevolante, a volte costituisce però una piccola gabbia e assistiamo a un impoverimento, diciamo, dell'aspetto creativo. Di fronte a questa rivoluzione ci vuole creatività e quindi, ragazzi, io spero questo sia insomma un augurio per i nativi digitali, che sicuramente hanno un feeling naturale verso le nuove tecnologie, che possano anche riflettere, parlare e promulgare, insomma, spingere gli incontri anche nella realtà e non solo nella virtualità. Ecco, questo elemento di virtualità, realtà, di solito, cioè a volte viene in qualche modo usato come bastone da chi del mondo dei nativi digitali o comunque del mondo digitale ha un forte scetticismo. Lei dice invece una realtà scientifica, così come ho trovato interessante quello che lei ha detto, sono cervelli diversi, è una definizione sociologica o scientifica? Dottoressa Pensavalli? Non è più con noi. La domanda la teniamo per qualche momento e la riproporremo dunque, perché la differenza dei cervelli che avete sentito l'ho trovata davvero forte, sicuramente interessante all'interno di questa altra grande metamorfosi che è il nostro tempo, va bene, la metamorfosi è continua ma è accelerata da queste trasformazioni, la crisi senz'altro, ma anche la maturazione di un mondo che è quello della rivoluzione digitale, che adesso, non prima, non dopo, arriva anche alla soglia, al momento del voto in Italia. Allora, sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane e poi torniamo dai nostri ospiti. 8:45 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli con Massimiliano Panarari questa mattina e la dottoressa Michela Pensavalli, dunque, per questa campagna elettorale che naturalmente parte con un piede saldamente ancorato alla tradizione, che per noi vuol dire televisione in primo luogo e radio, poi con un'avanguardia numericamente ancora piccola, ma che segna anche l'inizio di un nuovo tempo in questa nostra metamorfosi. Oggi questo bellissimo termine ricorre, come abbiamo visto, ricorre anche quello di sobrietà. A proposito di questi due mondi, vorrei chiedere a Panarari, questo sforzo peraltro compiuto dai vecchi, andiamo semplici, quindi da noi, mi ci metto io, dal mondo tradizionale rispetto all'accesso sui nuovi media, ha senso? Cioè c'è chi ha organizzato piccoli eserciti per twittare, chi ha fatto grande attività, raramente sono dei veri blogger naturali, sono delle strutture organizzate per cercare di catturare un pubblico che, ricordiamolo, è stato messo in attività, in allarme anche dall'evento Grillo. Certo, l'organizzazione rimane una delle chiavi della politica naturalmente, e anche se i cervelli cambiano, come diceva la dottoressa Pensavalli, continuerà a pesare e a giocare un ruolo importante nella politica, che per l'appunto è rappresentazione e rappresentanza di tanti individui. Quindi anche se non si ha un approccio, diciamo così, da nativi digitali, per l'appunto il fatto di pesare nella rete attraverso l'organizzazione è molto significativo. Basti pensare al circolare di tante petizioni e di tanti gruppi che non risolvono di per sé stessi il problema della partecipazione, che però riescono ad incidere. Naturalmente si tratta di due media diversi, addirittura portatori nei loro protagonisti, probabilmente di attitudini e di atteggiamenti significativamente differenti. Però il caso di Grillo, che sbarca in rete insieme al suo sodale Gianroberto Casaleggio, certo un esperto autentico della comunicazione politica online e del web, anche se però non un nativo digitale, dimostra come chi proviene da forme di comunicazione, diciamo così, più tradizionali, come diceva lei, quali la televisione e quali il rapporto diretto con il pubblico nel mondo dello spettacolo, è in grado di pesare e tantissimo attraverso la rete, che diventa in questo caso un moltiplicatore. Anche se per l'appunto quello che risulta decisamente interessante è il fatto che nella comunicazione politica online si sviluppano dei processi diversi, e anche se si tratta di fenomeni ancora di nicchia, io credo che ci sia uno spazio che sta diventando significativo in termini proprio di creatività e di generazione di nuove formule politiche, di nuovi modelli, spesso ispirati alla forma ludica, al modello divertente, ad una comunicazione, diciamo così, conversazionale fatta di interazione diretta, che riescono a diventare dei volani di creatività, e lo vediamo sempre di più all'interno delle campagne elettorali, grazie a questa cultura immersiva e del remix. Cultura immersiva e del remix, ecco, ci torniamo. Dottoressa Pensavalli, quando prima, poi è caduta la linea, sono rimasto colpito dall'affermazione dei cervelli diversi, avevo una domanda che poi è stata sospesa appunto dalla linea, ma la definisce cervelli diversi in termini sociologici, scientifici, mi colpisce questa affermazione. Sì, anche i cervelli, dimostrato con proprio tomografie proprio del cervello e dell'area frontale. L'area frontale è più sviluppata, diciamo che questo poi nel comportamento si traduce nella capacità di flessibilità sicuramente maggiore, ma nella penalizzazione di comportamenti che siano poi più espressivi. Diciamo che i nativi digitali hanno qualche deficit simbolico e hanno un impoverimento del linguaggio, non sempre ma spesso, ma sono capacissimi per esempio di surfare nella rete e quindi di supportare, diciamo così, anche il passaggio, il link tra un argomento totalmente diverso dall'altro, per cui hanno un cervello più elastico e più abituato alla riflessività, sono più percettivi. Per esempio le nuove tecnologie suscitano, l'iPhone è venduto senza istruzioni perché è la tecnologia stessa che suggerisce il suo uso, l'utilizzo. Ecco, il multitasking non è una scusa, è una realtà. È una realtà, direi sì, che non possiamo, anche noi adulti non immigrati digitali, diciamo così, non dobbiamo fermarci, diciamo, al giudizio di questa modalità nuova. Ecco, perché effettivamente è proprio per quello, perché noi adulti vediamo spesso nell'affermazione sono multitasking, molto diffusa tra i ragazzi più giovani, fondamentalmente una scusa. Lei invece descrive che è parte di una, appunto, di questa metamorfosi. Del nativo digitale ha una modalità ipertest, è capace di copiare, incollare, ha una modalità di ragionamento tipo i motori di ricerca, tipo Google, per cui ha una velocità di reperimento di informazione sicuramente più alta dell'immigrato digitale. Non è una scusa, è una verità, il loro modo di ragionare è diverso, con dei vantaggi e dei disvantaggi ovviamente. Naturalmente, come accade sempre nelle cose, ma per quanto riguarda poi la politica, questa loro... diversità relativa, insomma, del loro cervello e questa loro mutazione in corso, ne fa in realtà degli elettori diversi, secondo lei? Oppure alla fine questa è l'offerta e si ritrovano magari alla vecchia maniera, ispirandosi ai comportamenti dei genitori piuttosto che degli amici, piuttosto che dei loro modelli di riferimento? Diciamo che comunque da alcune ricerche, ne ricordo una tra le ultime, diceva appunto che il 66-68% dei giovani non credono nella politica e addirittura quasi l'80% non credono nei politici, quindi si disinteressano sommariamente della politica, non è molto qua che confonde. 80% sì, anche se mi chiedo se oggi facessimo un sondaggio di questa portata anche sugli adulti, forse non saremmo così... Così distanti, no, non è una battuta, è una vera, nel senso che ci sono stati tempi migliori per la classe politica. Comunque dice, i giovani fondamentalmente se ne distaccano? Se ne distaccano, e comunque sia, la regola è che se la partecipazione giovanile c'è, o è digitale o non è, nel senso che quella partecipazione che c'è, se basta osservare sui social network come Facebook, come Twitter, le pagine di Mario Monti, le pagine di Bersani, chiaramente qui in Italia non è stato scoperto niente, perché tutto questo diciamo era già presente arriva da fuori. Anni fa, arriva da fuori, questa democrazia digitale era già presente negli Stati Uniti, nel New England addirittura si sono organizzate dei veri e propri town meeting, cioè delle città, delle assemblee pubbliche virtuali, e quindi la gruppalità, la psicologia dei gruppi è sempre stata presente, esistente, qui in Italia fa ancora molta fatica, diciamo che il fenomeno Grillo ha sdoganato un concetto oramai condiviso da molti, che si può partecipare ed essere parte attiva di un movimento, e quindi anche attraverso la rete conoscere contenuti, cliccare il proprio punto di vista, la propria opinione, per cui diciamo che possiamo parlare di una nuova generazione ipoteticamente di click attivisti, anche se poi l'incisività dei nativi digitali è davvero molto bassa, tant'è certo. Che le politiche si rivolgono molto poco a loro. Altrove, infatti, grazie dottoressa Pensavalli. Con Massimiliano Panarari vorrei andare alla conclusione, insomma siamo sulla soglia di un cambiamento, ne avvertiamo anche attraverso il movimento Grillo la portata fisicamente, però è più una, come dire, quasi il mondo vecchio che cattura quello nuovo, ma quello nuovo che non produce ancora contenuti. Questa campagna elettorale alla fine vuole provare a distribuire i pesi, dove sarà decisa la TV, abbiamo detto, in primo luogo. La metamorfosi è in corso, come si diceva prima, però naturalmente, come tutte le fasi di passaggio, non ha completamente cambiato i pesi. Io penso che la TV generalista continuerà a rappresentare un potentissimo motore di comunicazione, credo per alcuni versi decisivo. Quelle che si muovono in rete sono delle avanguardie, naturalmente, in grado di influenzare l'opinione pubblica, ma un'opinione prevalentemente di persone che per l'appunto vivono all'interno del mondo del web e che nel caso italiano naturalmente non sono maggioritarie. Naturalmente cambierà il tipo di qualità di comunicazione, nel senso che il mezzo broadcast, quello della televisione, è un mezzo assai poco interattivo, naturalmente molto unidirezionale, che in alcuni casi addirittura contamina la rete, perché come sempre più osservatori indicano, il caso del Movimento 5 Stelle è un caso di grande base potenzialmente partecipativa, ma in cui Beppe Grillo ha un uso quasi televisivo. Sì. Poi è andata altrimenti, o sta andando altrimenti, per carità, c'è sempre altrimenti. Tempo per... C'è sempre tempo per... Quindi Grillo fa un utilizzo che paradossalmente in un gruppo che rivendica appunto questa innovazione è quello più classico della televisione. Io parlo, tu ascolti, divano o meno. Decisamente così, un uso molto verticale e molto verticistico. Mentre all'interno della rete avverrà, o sta avvenendo probabilmente, io penso che questa campagna elettorale rappresenterà un'ulteriore occasione, quello che si è già visto in altri casi, che si è visto per esempio nella campagna di Pisapia, che si è visto a proposito dell'infortunio di Alemanno nella gestione dell'emergenza neve a Roma, ovvero uno sviluppo di creatività quasi situazionista, diciamo così, che va molto poi nella direzione della trasformazione del mondo dei consumi culturali. culturali, in cui, come il marketing aveva già intuito parecchio tempo fa, il consumatore, naturalmente il consumatore più avvertito, la minoranza dei consumatori, va in una direzione di prosumer, come si dice nel mondo del marketing, in cui in qualche modo interagisce, produce contenuti, ma saranno, come diceva lei, contenuti importanti che si distribuiranno nella rete, ma che rimarranno ancora a livello di minoranza. Io credo che la radio, quella radio che ha svolto un ruolo così importante nelle campagne elettorali del secolo passato, che è uno strumento caldo, sia invece destinata ad essere riscoperta da una nicchia e da una frazione di elettori, di cittadini elettori che troveranno in essa uno strumento interessante. L'ennesima riscoperta della radio, grazie al professor Massimiliano Panarari, la dottoressa Michela Pensavilli, la radio che come dire, è entrata in maniera assolutamente naturale nel mondo digitale già da una quindicina d'anni e che ora chiude questo appuntamento per aprirne un altro. Vedo già Simone Spezia in arrivo, tempo di GR24, un saluto a tutti da parte mia, un ottimo fine settimana.